Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sarro Giammonino, nuova poesia di Luca Sarro Giammonino, dal titolo Il male. Oggi male sono stato, è in questi momenti che senti forte la tua umanità, la caducità della vita e dell'essere. Viva Dio, mi sono lentamente ripreso, ma son ferite che nel profondo restano nell'animo tuo. E passare all'età adulta, capire del corpo la mortalità e l'immortalità di quel piccolo gioiello che è l'anima tua.